24, i gialli della storia. Bentornati su Mix 24 con la storia del golpe borghese, un golpe che secondo i tribunali italiani non sarebbe mai esistito. Tutti gli imputati infatti già nel 72 vengono scarcerati e viene revocato il mandato d'arresto del principe borghese. Ma nel 74 lo abbiamo sentito, un colpo di scena. La magistratura riceve un dossier dall'allora ministro della difesa Giulio Andreotti. A fornire il dossier ad Andreotti però è il numero 2 del SID, non il capo Vito Miceli, ma il generale Gianadelio Maletti, che si è avvalso per le indagini della collaborazione di un capitano dei carabinieri, Antonio Labruna. Ma Orlandini in questi colloqui registrati fa un nome sensazionale, quello di Vito Miceli, il capo del servizio segreto militare. Così nelle trascrizioni tra gli infiltrati del SID e Remo Orlandini. È vero, Remo, che Miceli è stato contattato da te? Sì, sono un po' di anni, sì. Nel 1968. È stato contattato personalmente da te? Tramite un amico. E dopo tu hai organizzato un incontro direttamente tra Miceli e Borghese. Dove è avvenuto questo incontro? A casa mia. In che modo è avvenuto questo incontro? Cioè rispetto alla notte del Tora Tora? Ah, prima, di molti mesi. Perché ultimamente l'avevamo un po' emarginato per questi motivi qua. Lui di quella sera non sapeva proprio nulla. Comunque la sua adesione l'aveva data in occasione precedente, insomma. Già. Ma di fronte a queste clamorose rivelazioni di Orlandini, Maletti, il numero due che sta indagando sulla cospirazione, non ha scelta. Deve scavalcare il suo capo Miceli e rivolgersi direttamente al ministro della difesa Giulio Andreotti. Così le parole dello stesso Gianadelio Maletti e poi di Giulio Andreotti. Andreotti non mostrò sorpresa alcuna quando io gli parlai, ma Andreotti è persona difficile da interpretare, vero? Esattamente, Maletti viene da me e mi dice: guardi, dalle indagini che ho fatto c'è un colloquio che ha avuto personalmente il generale Miceli con il principe borghese. Nel fare questa inchiesta lui si trova che il suo superiore viene ad essere a risultare che si era incontrato col principe borghese. Quindi non poteva dirlo al superiore direttamente, cosa voleva dirlo a me? E sentimmo questa registrazione, che il tecnico della registrazione era il capitano Labruna. Fu un momento per lui, per noi no, però sapevamo, insomma, per lui così. E la spiegazione che te Miceli, perché gli domandavo, la spiegazione che dite, diciamo, io devo prendere delle informazioni, ora non è il capo servizio che va a prendere delle informazioni. L'errore era stato di chi l'aveva messo a capo dei servizi, perché non aveva né la professionalità di questo, né forse quel tanto di malizia che forse può darsi che sia necessaria pure per dirigere i servizi. Il giorno dopo questa riunione con Maletti, Andreotti, ministro della difesa, destituisce una ventina fra generali e ammiragli, sostituendoli senza alcuna particolare spiegazione. Un vero e proprio terremoto ai vertici dei servizi segreti e delle forze armate. Ma quel dossier riapre anche le indagini della magistratura. Il 10 ottobre del 74 la Procura di Roma spicca 23 mandati di cattura. Nell'elenco figurano tutti i nomi dell'inchiesta del 71, poi scarcerati dopo un anno. Ma questa volta tra gli arrestati c'è anche il nostro testimone, Adriano Monti. Portarono alle carceri qui di Rieti e alle carceri mandamentali. Si aspettavano allora da me una confessione su quello che loro ritenevano il ruolo da me tenuto come intermediario, cosa che io per ragioni intellettuali e umane non potevo fare, insomma. Era logico che dovevo per forza negare. Nel 1974 dunque Adriano Monti nega tutto e un anno più tardi, scarcerato per motivi di salute, fugge all'estero dove resta latitante per 10 anni. Intanto il processo borghese prosegue proprio a partire da quel dossier del SID. Si apre a Roma nell'aura bunker del Foro Italico il 30 maggio del 77. È cominciato questa mattina a Roma il processo per il golpe borghese. imputati sono ben 78. Tra loro anche Vito Miceli, ormai destituito da capo del SID e che è stato arrestato il 30 ottobre del 1974. Tra i latitanti, oltre ad Adriano Monti, anche l'imputato chiave, Remo Orlandini. Il golpe, secondo quel dossier, ha inizio nel pomeriggio del 7 dicembre del 70, quando un comando di uomini di avanguardia nazionale del Fronte Nazionale penetra dentro il Ministero degli Interni e saccheggia l'armeria. Così, dalle trascrizioni dei colloqui degli infiltrati del SID e Remo Orlandini, emerse dal dossier del servizio segreto militare. Sono entrati nel primo pomeriggio. Sono entrati nel deposito, nell'armeria, insomma. Hanno caricato tutti i caricatori, hanno tirato fuori le armi, le hanno sgrassate, hanno messo a posto tutto quanto. Hanno messo in ordine le mitragliatrici pesanti e le hanno portate nei punti per la difesa del Ministero degli Interni. Chi c'entrava più lì? Questo è avvenuto nel primo pomeriggio. No, è incominciato nel primo pomeriggio. Poi è andato per le lunghe, si è arrivati alla sera, piuttosto tardi. In quanto ci è voluto molto tempo, perché gli uomini erano pochi. Quindi sono stati pronti nella prima serata? No, no, molto più tardi. Dal Ministero degli Interni dovevano uscire 200 mitra, che poi invece di 200 erano 180, che dovevano arrivare a me e che io dovevo dare a determinate persone per un altro obiettivo. E quando le hai avute queste armi? Non le ho avute, perché poi è arrivato l'ordine di rientrare. Abbiamo fatto in tempo a riprenderle per strada. Abbiamo ripreso l'autocarro per strada, lo abbiamo fatto rientrare e scaricare. E poi le armi sono state di nuovo incassate e rimesse a posto. Ma una dichiarazione come questa ovviamente non può bastare da sola a provare l'occupazione del Ministero degli Interni. Ma sempre secondo l'accusa, quelle prelevate dal Ministero degli Interni non sono le sole armi a disposizione dei golpisti. Così nella requisitoria del pubblico ministero Claudio Vitalone al processo Borghese. Quasi 200 uomini, 197 per l'esattezza, partirono nella tarda serata del 7 dicembre dalla caserma di Città Ducale al comando del Berti. Un'autocolonna di tipo strettamente militare. È stato accertato che l'autocolonna, lungi dal dirigersi verso i Colli Albani, punta dritta su Roma, arrestandosi sulla via Olimpica a poche centinaia di metri dagli impianti della televisione. Il segnale d'arresto è impartito dal Berti, il quale va a fermarsi dietro un autoveicolo in sosta, dal quale discendono due individui con i quali si intrattiene a parlottare per brevi istanti. Finito il colloquio, il Berti, fra la sorpresa generale, riprende la via del ritorno senza spiegare neppure agli ufficiali, ai suoi più diretti collaboratori, le ragioni della mancata esercitazione. Dunque, secondo l'accusa, accanto agli uomini di Borghese e di Avanguardia Nazionale c'era un gruppo di guardie forestali provenienti da Ariete, un'autocolonna che poi a pochi metri dalla sede RAI di via Teulada avrebbe misteriosamente ricevuto un controordine. Ma davvero poche centinaia di uomini avrebbero potuto creare un regime militare in Italia? E quale era allora il vero obiettivo di quella notte? Così racconta il pubblico ministero del processo Borghese Claudio Vitalone. L'ipotesi più plausibile è in una ricostruzione della strategia golpista, cioè dire creare le premesse per un intervento di tipo autoritario. Una volta che si fossero accesi vari focolai di infezione nella capitale, probabilmente era legittimo l'intervento degli apparati dello Stato. E semmai alcuno di questi apparati fosse stato coinvolto nella strategia golpista, avrebbe avuto un titolo di apparente legittimazione all'intervento. Secondo Claudio Vitalone, pubblico ministero del processo Borghese, l'ipotesi più plausibile chiama in causa presunte complicità di apparati dello Stato. Eppure nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 70 queste complicità non ci sono o per così dire non scattano. Ma cosa succede allora nel frattempo nel comando militare delle operazioni? Torniamo allora ancora ai colloqui tra il costruttore Remo Orlandini e gli agenti del SID. Dal comando B ho messo in moto ed è partito tutto. A un certo momento ricevo una telefonata dal comando A in cui mi si invita ad andare là di corsa. Mi è venuto un accidente. Mi sono precipitato e Borghese mi dice: guarda che bisogna rientrare, bisogna far rientrare tutti. La mia reazione è stata questa. Non mi sparo un colpo di pistola in fronte solo perché non ce l'ho. Da chi aveva ricevuto l'ordine, Borghese? Questo non lo so. Inquietante e irrisolto l'interrogativo: perché e chi diede l'ordine o il controordine? Allora l'unica giustificazione che ti hanno dato per l'arresto dell'operazione, correggimi se sbaglio, è che il fatto di non poter entrare nel Ministero della Difesa nei termini previsti aveva pregiudicato tutto. Bravo! Mi hanno messo di fronte al fatto compiuto. Ti ho detto che entrando avevo incontrato il generale Casero. Bene, il generale Casero era l'uomo che a quell'ora o un'ora dopo doveva andare a prendere l'uomo per portarlo al Ministero della Difesa. L'uomo era quello che doveva dare le disposizioni a tutto l'apparato militare. Scusa, quest'uomo era cosciente, volente? Cosciente e volente. Era il generale Duilio Fanali. Ma il generale Duilio Fanali non è mai stato incriminato per il golpe Borghese. Il generale Casero, che pure è stato incriminato per cospirazione politica e insurrezione armata, verrà assolto con sentenza definitiva in Cassazione. Ma intanto il principe Borghese come reagisce al fallimento del golpe? Poco dopo il fallimento del golpe, il principe Borghese, latitante dal 71, muore a Cadice in Spagna all'età di 68 anni in circostanze mai completamente chiarite. Nell'agosto del 74, nel processo, oltre alla voce di Borghese, manca anche quella di Adriano Monti, che abbiamo detto essere latitante sin dal 75. Ma qual è stato esattamente il ruolo di Adriano Monti? Il mio ruolo è stato soprattutto di fare da tramite con certi ambienti internazionali dove avevo delle conoscenze per conoscere se questa nuova aura di presidenzialismo in Italia, da attuare con l'aiuto di alcune parti delle forze armate, poteva essere gradita in certi ambienti. 19 dicembre 2004. Grazie al Freedom Information Act, il quotidiano La Repubblica acquisisce documenti esplosivi. 5 informative che l'ambasciata americana a Roma spedisce a Washington tra l'agosto e il settembre 1970. Oggetto di queste informative, fino ad oggi secretate, proprio il progetto di Borghese. Gli americani, dunque, sapevano del colpo di Stato. Insomma, l'ambasciata americana a Roma sapeva del progetto eversivo e ne aveva informato la Casa Bianca di Richard Nixon. Ma Adriano Monti, il nostro testimone, non si limita ai contatti con l'ambasciata americana a Roma. Sappiamo che Adriano Monti è andato anche a Madrid per incontrare l'ex ufficiale nazista Otto Scorzeni, l'uomo che ha liberato Mussolini dal Gran Sasso nel settembre del 43 e grande amico del principe Borghese. Ma cosa c'entra Otto Scorzeni in questa storia? Otto Scorzeni era uno dei fiduciari dell'organizzazione Gehlen. L'organizzazione Gehlen era un'organizzazione di intelligence tedesca che aveva operato molto bene negli ultimi anni di guerra e che fu praticamente cooptato dagli americani e fu inserito praticamente come una delle forze di intelligence fiancheggiatrici della CIA. Io andai a parlare con Scorzeni, che stava a Madrid, per sapere se lui poteva dare al principe Borghese la conferma che da parte di certi ambienti dell'intelligence americana si guardava con un certo rispetto a un'iniziativa del genere. E quale fu la risposta di Scorzeni? La risposta fu sì, a condizione che ci fosse un personaggio che loro indicarono della politica italiana che doveva dare la garanzia, avrebbe dovuto essere praticamente il presidente in pectore che avrebbe presieduto questa specie di governo paramilitare o militare, insomma, ecco. Insomma, un nome di garanzia, ma chi era? Quello di Giulio Andreotti, insomma, come personaggio che avrebbe potuto garantire un passaggio indolore da una situazione ad un'altra. Era strano che si dicesse di no, perché pensavo io fossi, non immagino nemmeno mai l'ipotesi di queste forme, chiamiamo insurrezionali, sono legato concettualmente proprio a un sistema, mi sono sempre tutto trovato bene con il sistema democratico. Fin qui la risposta di Giulio Andreotti alle rivelazioni di Adriano Monti, che chiamano in causa anche settori dell'intelligence americana informati e consapevoli della preparazione del golpe. Ma queste sono dichiarazioni di Monti, che ha scelto di fare solo dopo, e quindi tutti questi scenari agli inquirenti di allora rimasero completamente ignoti. Ma allora, come è andato a finire il processo Borghese? A Roma, nella tarda mattinata, i giudici della Corte d'Assise che stanno giudicando i presunti golpisti di Valerio Borghese sono entrati in camera di consiglio per formulare la sentenza. Il pubblico ministero Claudio Vitalone, nella sua requisitoria, ha chiesto la condanna di 60 imputati per complessivi 495 anni di carcere. La Corte di Assise in realtà deciderà per pene molto più miti. Adriano Monti viene assolto per insufficienza di prove, assolti anche il generale Casero e l'ex capo del SID Vito Miceli. Remo Orlandini viene condannato a 10 anni, Stefano Delle Chiaie e Amos Piazzi a 5 anni, Sandro Sacucci a 4 anni, assolto anche Luciano Berti. La marcia della Guardia Forestale su Roma è considerata solo una coincidenza. Il 27 novembre dell'84 la Corte di Appello ribalta il giudizio di primo grado e manda tutti assolti. Nell'85 la Cassazione conferma quell'assoluzione. Ma invece in questo affare senza fine c'è ancora un clamoroso colpo di scena. Siamo a Milano. È il 7 novembre del 91 e il giudice istruttore Guido Salvini sta indagando su alcune stragi degli anni 60 e 70. A un certo punto c'è la necessità di ascoltare nuovamente il capitano Antonio Labruna. Aveva fatto una copia di tutti i nastri e delle conversazioni avute con i congiurati prima di darle al suo superiore Maletti. Quindi aveva l'intero originale, che non era mai stato divulgato e che era diverso da invece da quelle riduzioni che man mano furono fatte prima di arrivare alla magistratura. Alla magistratura arrivavano i nomi degli ufficiali in pensione, di quelli che non contavano niente, mentre altri ufficiali che fecero poi carriera, che rimasero in servizio con ruoli anche importanti nello Stato Maggiore. Alcuni nomi, dunque, lo avete sentito, furono cancellati e non comparvero in quel dossier consegnato alla magistratura nel 1974, come quello dell'ammiraglio Giovanni Torrisi. Ma non solo da quei nastri nel 74 è scomparso il nome di chi in quel golpe doveva occuparsi del rapimento del Presidente della Repubblica Giuseppe Sarga. Nomi della massoneria, della P2, uno su tutti, Licio Gelli, ma anche finanzieri, imprenditori e infine la mafia. Ma perché allora nel 74, prima di consegnarlo alla magistratura, furono cancellati dei nomi e dei particolari così importanti? Noi lo abbiamo chiesto a chi materialmente consegnò il dossier alla magistratura, l'allora ministro della difesa Giulio Andreotti. Adesso lo leggo, ricordato, sono passati molti anni, perché c'erano alcune cose che non erano essenziali agli effetti di responsabilità di carattere penale, ma la cui pubblicità avrebbe potuto essere nociva sotto altri aspetti di conoscenze, di rapporti con altri servizi. Questo mi ricordo che ci fu una necessità di questo genere, che poi dopo si prestò a dire: ah, lo avete nascosto come se fosse nascosto per... Che c'erano dei nomi interessanti, tipo Torrisi, che sarebbe diventato capo di Stato Maggiore della Difesa, sì. Marchesi, sì. Poi c'era anche il nome ma Salvini dice anche il nome di Gelli, ad esempio, di altri, poi beh, tutta gente che era piduista poi alla fine. Vabbè, questo poi dopo, il P2 è venuto fuori dopo, sì. Però questo... Ma vedete, in mettere in un circuito dei nomi di persone che fino a prova contraria, insomma, nella Torrisi erano tutti i cosi, quindi questa è la ragione per cui era giusto non esporre, non per le singole persone, ma perché se no, attenzione, perché se uno voleva dire fare le scarpe, non so, a tutti quelli che lo precedevano in carriera, faceva un rapportino di questo genere, in quel momento tu lo mandi al magistrato, insomma, allora poi hai la strada libera per entrare. Il problema P2 è un problema, è tutto ancora da doversi anche elaborare, insomma era una setta massonica vera e propria, o no. Resta il fatto comunque che molti di quei protagonisti di quei fatti avversivi erano della P2, insomma. Maletti era della P2, Miceli era della P2, la Bruna era della P2, Torrisi era della P2, eccetera. Questo è tutto, però insomma io non so se sia, forse se si scriverà a me, forse è anche difficile fare una storia vera della P2, insomma, che cos'era? Era una mutua di solidarietà, avevano dei progetti di carattere diverso, non lo so. Nel 1995 la Procura di Roma ha incriminato Licio Gelli per cospirazione politica, insurrezione armata contro i poteri dello Stato e attentato all'incolumità e alla libertà personale del Presidente della Repubblica. Per la manipolazione dei nastri invece sono stati incriminati il generale Maletti, il capitano La Bruna e il colonnello Romagnoli. A loro è stato contestato il reato di omissione di atti d'ufficio per sottrazione di documenti relativi alla sicurezza dello Stato. Il procedimento contro di loro è stato archiviato per prescrizione il 30 ottobre del 97 dal giudice Otello Lupacchini. Anche il procedimento contro Licio Gelli è stato archiviato per l'impossibilità di acquisire nuovi elementi di indagine.